chiamando su Skype clandestino.c oppure direttamente su Facebook sul nostro contatto, altrimenti email su clandestino.c @gmail.com. Vado subito a presentare gli ospiti della serata. Un ospite direttamente dalla Francia, prego. Bonsoir à tous, buonasera a tutti, mi chiamo Adrien Jean Desbos, infatti cognome Jean Desbos, e sono francese. Poi che devo dire, mi presento, la mia età, allora la mia età è 20 anni, vabbè quasi 21 a luglio, e studio scienze politiche, quest'anno faccio il primo anno di specialistica in Erasmus. E poi niente, poi do il microfono a Ciccio che parliamo un po' di più, non mi introduci di più. Ok, e vado subito alla sala macchine, l'imperdibile, inaudito, Peppone. Buonasera a tutti, buonasera. Iniziamo la quarta trasmissione, andiamo un pezzo. Ok, mitici Kiss, i Kiss, Destroy City, il film sui Kiss, fantastici i Kiss. Ok, e riprendiamo subito la trasmissione. E niente, salutiamo subito Luigi che ci tiene ai saluti in onda radio. Comunque, niente, stasera avremo tantissimi temi da trattare. E con il nostro ospite qui presente direttamente dalla Francia, naturalmente sarà tutto più emozionante, perché comunque ci addentreremo proprio nel cuore, nel dans le cœur de la France. Allora, io volevo salutare a Stefania che è venuta qua per ascoltarci e che è molto simpatica, e infatti che viene di un paese che si chiama Verbicaro in provincia di Cosenza, dove ci sono c'è il vino, però ci sono tanti francesi di origine verbicaresi. Infatti, nella mia città, tutti i miei amici di origine calabrese sono verbicaresi, mi parlano sempre di verbicaro. Io sono solo francese rigitano, tutti cosentini sono, purtroppo vorrei dire. Però, volevo salutare pure a Samuele, che quando sono arrivato qua all'università non conoscevo quasi nessuno e lui mi ha considerato quasi come un figlio, diciamo, perché ha quasi 20 anni di più di me, quasi gay, infatti lui è, però ha quasi 40 anni e volevo pure salutare Oreste, che forse ci ascolti. Ora lascio parlare Samuele. No, 40 anni secondo la questura. Infatti. E ora al maestro. E cui maestro? Alessandro. A cui? Ah, saluta Alessandro. Alessandro Cuomo, infatti lo conosco, che ammira tanti gli inglesi. Mi ha parlato una volta che odia i francesi, purtroppo. Però un po' Alessandro è Alessandro. Eppure a Pierpaolo, che chiamiamo pure bicicletta, con cui guardiamo sempre i video di ciclismo, che tifiamo tutti i Pantani, che era i Pidi, vorrei dire, rest in peace, Pantani. E oggi, ora do la parola a Ciccio, che... Oh, perfetto, quindi... Sarà una puntata abbastanza emozionata e calda, perché il nostro ospite comunque... Sa parlare, sa. E andiamo avanti con la musica anche. E volevo, comunque, è un pezzo, di artisti italiani, Equipe 84, L'Isola di Wight. E con la scusa volevo ricordare che nell'Isola di Wight quest'anno ci sarà il concerto 22, 23, 24 giugno. Proprio all'Isola di Wight c'è. Proprio c'è la scritta che ricordava Peppe, don't forget l'isola di Wight. E Pagna suona. Torniamo in studio qui, Clandestino Cid, questa sera più fricchettone che mai, comunque con l'Isola di Wight. Correva bei tempi, Peppe, i magici anni 70. Noi eravamo molto giovani quegli anni. Sì, può darsi, perché comunque la reincarnazione è qualcosa che va presa in considerazione, no? Certo, io mi sono reincarnato più volte. C'è un nostro amico che si è reincarnato in Tartaruga di Mare, non so se lo conosci. Chi è? È Tarlo, un saluto. Un saluto a Tarlo e a tutte le tartarughe di mare. Ok, adesso andiamo avanti. Un saluto anche a Rossella, che ci teneva molto al saluto, ci ha contattato su Facebook. Allora, io volevo salutare a Rossella e Antonietta, perché ci ascoltano sempre, quindi poi do la parola a Ciccio. Grandioso, grandioso. Niente, io avevo soltanto una news da dare a Peppe, che mi è uscita adesso qui su Anza.it. Il Big Bang potrebbe essere ribattezzato Elizabeth Tower, Peppe. Il Parlamento deciderà entro fine mese. È una bella cosa, dai. La regina tutti la vogliono bene in Inghilterra, la trattano su con i guanti bianchi, no? È bello la regina. Io la vado a prendere a calci nel culo, però se gli inglesi la vogliono, se gli inglesi la vogliono, se la tengono. Qui noi li abbiamo cacciati un po' di tempo fa, i re vari. E un saluto anche a Christian di Cancello, che ci ascolta. E ora ripasso la palla a Ciccio. E vabbè, un saluto anche agli amici di Borgia. Certo. A Pietro da Borgia, un saluto. Molti saluti per iniziare, ma salutiamo gli altri più tardi, non lo so, se no facciamo solo saluti. Sì, infatti stasera sembriamo proprio allo stadio, sembra di essere allo stadio, con saluti. Ciao mamma! Ok, andiamo avanti con la musica, direi, Peppe, più che altro andiamo avanti con la musica e vogliamo un pezzo proprio, Peppe, che è riconosciuto. Prego. Mandiamo un pezzo di David Bowie, non ha bisogno di presentazioni. Rock your mother in a world Torno in studio, cari amici, clandestino CID, on air, su Fuori Onda Radio, punto altervista.org, la lotta studentesca nell'etere. Ascoltateci, ascoltateci. Iniziamo adesso con la nostra pseudo intervista all'ospite, la special guest for France. Niente, Adrien, incominciamo. Va bene, ti sei presentato prima, nome, cognome, cosa studi? È la prima volta che vieni in Italia? No, allora io devo dire che vengo in Italia da tanti anni, perché abbiamo la casa a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, dove è nata mia nonna. E quindi l'Italia, diciamo, Reggio Calabria la conosco abbastanza bene. Posso dire che sono quasi a metà italiano. Però sono nato in Francia, cresciuto in Francia. E solo una cosa, volevo parlare un attimo in francese per salutare allora, Antoinette, tu vois, je t'ai pas oublié, je te parle en français, la belle Antoinette. E vedi che ora mi lasciano parlare un pochettino, quindi ti posso salutare. Vabbè, ora è finito. Do la parola a Ciccio. Ok, Adrien, quindi sei figlio proprio, diciamo, di una generazione di immigrati che sono venuti in Francia. Appunto, prima volevo ricordare il pezzo Ninco Nanco, encomio al comandante, che è un grande brigante, amico di Carmine Croc, che ha perso la vita in Basilicata nella Resistenza, perché già allora si sentiva parlare di Resistenza. E comunque lo volevo dedicare a tutti i popoli oppressi da dittature, regimi con lo strapotere e contro l'imperialismo in generale. La nostra azione antiimperialista parte anche da qui, Pep. Sì, volevamo ricordare la resistenza dei briganti calabresi, lucani e meridionali in genere, che sono stati accusati di essere mafiosi, questo e quello, ma in realtà difendevano la loro terra dall'invasore piemontese. Infatti all'epoca si parlava di, non si difendeva il governo borbonico, ma assolutamente si voleva l'indipendenza, ma non si voleva stare sotto il regime dei Savoia, che tra Barboni e Savoia è la stessa pasta alla fine. Non è che c'entriamo noi con i Savoia, che c'entrano loro qui. Però sono venuti qua, ci hanno rubato tutto, ci hanno accusato di essere, avevamo la ferrovia, avevamo un sacco di cose, ci hanno accusato di essere mafiosi. Vabbè, ripasso la palla, non lo so, ad Adri. Gli volevo chiedere, gli volevo fare una domanda. Come si vive in Francia? Come si è vissuto durante il periodo di Sarkozy? Allora, io devo dire che il periodo con Sarkozy è stato bruttissimo, cioè l'incubo totale. Vabbè, io devo dire che non voto di solito, cioè non posso votare perché i compagni lo sanno, sono proprio anarchico, però quasi quasi avevo voglia di votare alle ultime elezioni, perché quando ho visto che magari Sarkozy potrebbe ancora una volta vincere, io non lo potevo immaginare proprio. Alla fine non ho votato, ma ho visto quel risultato che ha vinto il candidato di centrosinistra, che non mi piace quasi per niente. Però diciamo, meno male che abbia vinto lui, perché non si poteva stare ancora 5 anni di più con un altro coglione che ci ha rovinato il nostro paese, la nostra reputazione. Non è che io sono nazionalista e fiero di essere francese, però almeno in Francia abbiamo un sistema sociale abbastanza sviluppato, che e lui con il suo governo hanno rovinato tutto. Ogni mattina scusatemi se sono un po' volgare, però con una cazzata, cioè dicevano cose razziste, quasi fasciste, tipo le cose sull'identità nazionale, che nessuno, non ci interessa in Francia, cioè la Francia è un paese di immigrazione, è sempre stata così. E allora perché loro sono arrivati? Soprattutto Sarkozy, che è proprio un figlio di immigrati, che è arrivato con le sue teorie razziste contro i musulmani, contro gli arabi, contro i turchi, contro pure a volte anche contro i figli italiani, contro gli africani. E devo dire che sono abbastanza contento di avere visto la faccia di Hollande, così si chiama il nuovo presidente, quando alle 8 di sera, la domenica 6 maggio, mi pare, ho visto la sua faccia nella televisione come nuovo presidente, anche se un candidato che non avrei mai votato per lui. Devo dire che sono stato abbastanza contento di vederlo. E quindi... Però Adrien, mi ha meravigliato questa cosa, cioè tu non vai a votare proprio dove in Francia comunque il diritto al voto è stato qualcosa di sentito, dopo, cioè, voglio per ricordare, non so, Egalité, Fraternité, Liberté, magari la presa della Bastiglia, cioè eventi storici comunque importanti che hanno segnato la storia. Però nella Bastiglia non c'era nessuno quando l'hanno liberato, quindi non è che è solo un simbolo, diciamo. Certo, simboleggia il potere. A proposito, vorrei mandare subito un pezzo di Alpha Blondy per gli amici francesi. Ritorniamo ritorniamo. A proposito, vorremmo ricordare che la Cassazione ha detto sì alla marijuana sul balcone. Una piantina non ha portato offensiva, ha respinto il ricorso. Peppe, cosa ne pensi tu? Della marijuana? La marijuana... Io sono nettamente a favore della legalizzazione della cannabis e della marijuana in genere, dato che in altri stati si fuma tranquillamente, è legalizzato l'alcol in Italia, che è molto più dannoso della marijuana, che alla fine porta soltanto delle entrate alla mafia, quindi lo Stato ha dovuto dividere gli ingressi, no? Uno si è preso il tabacco e l'alcol, l'altro marijuana, cocaina, prostituzione, roba varia, no? Se in Italia si liberalizzasse la marijuana, innanzitutto la gente fumerebbe sicuramente cose buone, non fumerebbe erba mischiata con sostanze dannose. La prostituzione, si toglierebbe un sacco di gente dalla strada, un sacco di donne che vengono buttate lì e picchiate dai magnacci. Invece in quel caso pagherebbero le tasse, sarebbe tutto sicuro, uno fa quel lavoro soltanto se lo vuole fare, non viene costretto da nessuno a essere buttato in mezzo a questa strada. E l'alcol invece porta molti ingressi allo Stato e quindi viene utilizzato come... anch'esso è una droga molto forte, infatti crea molta dipendenza, distrugge il fegato, ti devasta. Quando uno si ubriaca lo sa qual è la sensazione il giorno dopo, mentre se uno fuma è tranquillo il giorno dopo. Io non sono un fumatore, però sono nettamente a favore della marijuana. Ok, però ricordiamo che sono sempre sostanze nocive, anche l'alcol, quindi fanne un uso moderato. Per quanto riguarda, oppure se si può evitare, è anche meglio, perché come dicevano i latini, mens sana, in corpore sano. A proposito della prostituzione, Peppe, hai toccato un punto proprio a favore, una bella palla per salutare così gli amici di Pisa, Raffaele, per l'ennesima volta, che abbraccio come un fratello. La prostituzione, gli italiani sono costretti ad andare in Germania, Svizzera, e non lo so in Francia, adesso ce lo dirà il nostro amico, naturalmente toccheremo tutti questi punti anche sul fronte francese, sono costretti comunque ad andare lì a pagare comunque dei soldi per avere delle prestazioni sessuali e pensare che in Italia comunque si parla tanto di controllo delle tasse, no? Se ne vanno a rompere le scatole a quei ben signori che stanno a Cortina nelle varie spiagge così private, quei gran signori dei nostri politici, giustamente se lo meritano, il lavoro è tanto da fare, Peppe. Il problema è che in Italia abbiamo quel tuo carissimo amico, quello lì che è stato denunciato in Germania per guidare la macchina senza cinture di sicurezza, è tedesco, si chiama Josef Rasinger, austriaco, scusate, no, è tedesco, ok. La scorsa puntata abbiamo infatti raccontato la storia che è stato denunciato in Germania per guida senza cinture di sicurezza, bellissimo questo fatto. E in Italia ci riempiamo di moralismo, dato che c'è il Papa, si vieta l'uso delle cellule staminali, tutte queste cose che sono contro la morale, poi però finanziamo guerre, andiamo a ammazzare le popolazioni nell'Afghanistan, in Palestina, in Siria, in Libia, tutto il mondo, quelli che i cosi come sono primitivi là, diciamo, quindi dobbiamo andare a portare la democrazia. E usiamo gli F-35, così arriva prima la democrazia, perché se usiamo un mezzo più lento, non lo so, andiamo con la barca, ci vuole tanto. Invece andiamo con l'F-35 velocissimo e lanciamo una bomba piena di democrazia e vai. A proposito, comunque vorrei tanto salutare gli amici della Germania qui, li abbracciamo tutti. Voi avete avuto Ratzinger, noi abbiamo la Merkel, noi abbiamo Silvio Berlusconi, ognuno la sua croce. Comunque, Adrien, com'è la situazione in Francia, cioè la questione del proibizionismo e anche comunque problemi dovuti a questa piaga, quali prostituzione e mercato nero? Vabbè, infatti in Francia, io sto proprio a nord-est della Francia, quasi vicino alla Germania, E devo dire che ho tanti amici, però che pensano in un modo misogino e che vanno a vedere le prostitute, si dice così, sì, prostitute in Germania e pagare solo per fare sesso. A me mi fa schifo proprio, perché le donne sono trattate come delle, come oggetti, proprio come oggetti. A me non piace, perché io non è che voglio sembrare come un francese romantico, però pagare per fare sesso con una donna è un'idea proprio schifosa. Cioè, io non lo capisco, non sono mai stato in Germania, lo ammetto. E devo dire che la situazione in Francia penso che è quasi la stessa in Italia, a parte che a voi la televisione fa ancora più schifo della nostra, che si vedono le belline in Italia, che... E voi siete un punto molto avanzato rispetto alla Francia. Ancora non siamo nella vostra situazione. Però sono molto scioccato di questa situazione. Infatti, ora. Comunque, adesso Adrienne ha portato un pezzo nella sua lingua. Ci fa una piccola parafrasi, così lo spiega al pubblico. Yes. Allora, ora ascoltiamo La Javanese di Serge Gainsbourg. Che è stata una canzone, magari conoscete quella cantante francese che si chiama Juliette Gréco, che ha chiesto un giorno a Serge Gainsbourg di scrivere una canzone, e lui è andato a casa sua, non aveva scritto proprio niente, però ha visto quella ragazza di cui si è innamorato proprio, e ha scritto forse la canzone per me la più romantica della Francia, che si chiama La Javanaise, e che vuol dire, cioè, ci amavamo il tempo solo di una canzone, però ci amavamo tanto. Nous nous aimions le temps d'une chanson. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous, nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu? De l'amour, de vous à moi, vous m'avez eu, mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous, nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous, nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. E si ritorna proprio con quel romanticismo, lo so, Adrien. Come possiamo identificarlo con una parola francese, questo romanticismo? Allora, moi je dirais, bon, la parola assomiglia all'italiano e lo romantismo. Però io devo dire che sono cresciuto in una famiglia molto romantica, anche se, vabbè, mia mamma è italiana, diciamo, però sempre in un modo romantico siamo cresciuti, e quindi devo dire che questa canzone è bellissima, cioè, io non la posso descrivere proprio, perché Serge Gainsbourg ha scritto questa canzone magnifica, e io ogni volta che l'ascolto mi sento un altro uomo, cioè proprio un inno per le donne. E vabbè, ora oh, mamma mia, qua proprio c'è un romanticismo fantastico, fantastico. Peppe, lo so che tu sei romantico, quindi dai anche la tua, dai, dalla. E dalla, Peppe. La do. Non sono romantico, dai, diciamo, ma un bastardo romantico addirittura. Uno zingaro, come direbbe Adrian. Come dice? Amanush. Vabbò. Diciamo che io non è la mia lingua, il francese. Sono un po' lontano da quella lingua. Volevo dedicare una canzone a un mio amico che ieri abbiamo vissuto una particolare, diciamo, disavventura. La canzone è di... poi capirete il perché, dopo spiegherò il perché. La canzone è di Alex Britti, che è un grande chitarrista, però con i testi lascia un pochino desiderare, secondo me. Però volevo lanciare questa canzone perché il titolo richiama qualcosa che è successo ieri. Questa è La Vasca. Mangiare e bere sempre solo a dismisura, senza dover cambiare buco alla cintura. E poi domani non andrò neanche al lavoro, neanche avvertirò perché il silenzio è d'oro. Tornerò con gli amici davanti a scuola, ma senza entrare, solo fuori a far la ola. Non ci saranno ripetenti, tutto e basta. Staremo tutti insieme nella stessa vasca, così grande che ormai è una piscina. Staremo a mollo dalla sera alla mattina, così che adesso è troppo pieno e non si può più stare. È meglio trasferirci tutti quanti al mare. Quando fa buio accenderemo un grande fuoco, attaccheremo un maxi schermo e un maxi gioco. E dopo inseguimenti varie e varie lotte, faremo tutti un grande bagno a mezzanotte. Mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso. Mi bagno, asciugo e inizia a tiro spasso. Mi ribagno, mi ritocco, mi rigiro e mi rilasso. E mi ribagno, mi riasciugo, ricomincio a tiro spasso. Saremo più di 100, quasi 120, amici, conoscenti e anche i parenti. Con il cocomero e la Coca-Cola fresca, con le chitarre a dirci che non è Francesca. Aspetteremo le prime luci del mattino, festeggeremo con cornetti e cappuccino. E quando stanchi dormiremo sulla sabbia, le nostre camere scolpite nella nebbia. Ma dormiremo poche ore quanto basta, per poi svegliarci e rituffarci nella vasca. Mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso. Mi bagno, mi asciugo e inizia qui lo spasso. Mi ribagno, mi rituffo, mi rigiro e mi rilasso. Mi ribagno, mi riasciugo e ricomincio a qui lo spasso. Allora, eccoci ritornati. Allora, perché questo pezzo di Alex Britti, La Vasca? ieri, mentre ritornavo qui a Cosenza con il treno, è successo un fatto un po' particolare. Un Intercity che scendeva da Napoli, penso, in direzione verso Reggio Calabria, ha investito nei pressi di Falerna una vasca. C'era una vasca sui binari. Allora questo Intercity l'ha travolta e ha rischiato anche di deragliare. E i pezzi della vasca si sono infilati sotto le ruote del treno e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per sgomberare il tutto. E noi eravamo fermi alla stazione di Lamezia, siamo stati un'ora fermi a aspettare che ripristinassero la situazione. Volevo salutare due amici della disavventura di ieri, Cristian e Alessia, e anche Giorgio e Mara, che hanno vissuto anche loro questa situazione. E cosa volevo parlare innanzitutto, non volevo raccontare solo il fatterello, ma volevo parlare innanzitutto delle infrastrutture in Calabria, che sono, diciamo, sono una cosa inesistente. Si parla tanto di ponte sullo stretto, di TAV, di tutto, ma in Calabria siamo ancora sul Tirreno, esiste la linea ferroviaria che è mezza discreta, ma sullo Ionio per esempio c'è solo un binario, che il treno viaggia a gasolio, e quindi per andare da una parte a un'altra dello Ionio conviene andare a piedi più che andare col trono e più col treno. poi non lo so, gli ospedali in Calabria sono cosa nulla, infatti chi sta male preferisce stare quasi a casa piuttosto che andare all'ospedale, rischia di ammazzarlo. I morti in sala operatoria sono tantissimi per mancanza di corrente, per bende lasciate all'interno, e infatti noi siamo contro le infrastrutture come il ponte sullo stretto, ma non siamo contro il progresso come tutti dicono, ma in realtà vogliamo questi soldi che siano investiti per le infrastrutture che mancano in Calabria, migliorare gli ospedali, migliorare il collegamento sullo Ionio che è nullo. La 106 Ionica è una strada di campagna dove rischi di ammazzarti per ogni curva, perché la 3 diciamo che è un cantiere aperto da circa quando c'erano i Borboni, non lo so. Quindi sei un Borbone tu, Adri forse è un Borbone in realtà. No, io non sono Borbone, non sono niente, sono solo anarchico forse. Cosa? Io no, in Francia si dice ni Dio ni maître, vuol dire né Dio né padrone, cioè quindi non ho patria. Forse sei un barbone, non un borbone. Io sono più barbone, zingaro, in Francia di manouche, quindi vabbè, non sono niente. Cioè. Okay, anche io sono un barbone, un po' tutti, qui abbiamo un po' la barba lunga, però non sono un capellone, a differenza di Ciccio che con i suoi ricci vorrebbe prendere, gli passo la parola ai ricci di Ciccio. Sì, a proposito Peppe, vorrei ricordare che comunque queste non sono cose normali, cioè che il normale ormai è diventato il quotidiano, nessuno si lamenta, non sono cose quanto normali, cioè trovare una vasca a bagno su un treno, oppure l'altro giorno come sui binari di un treno, oppure come mi è capitato a me l'altro giorno, tipo scendevo sotto Belcastro, che è un paesino nella provincia di Catanzaro, e c'era un cane morto perché comunque era stato investito ed era morto lì per strada, proprio una cosa normalissima, cioè cava un ponte è normale, come la linea ferroviaria che tu conosci tanto, Pat. Sì, è successo l'altro giorno, qualche mese fa è successo che per l'appunto, ecco il grandissimo per l'appunto è partito, il primo di stasera, vediamo quanto ne dirò. Allora c'era, quando c'è stata l'alluvione nel Catanzarese, diciamo nel Crotonese, un treno che era partito dalla Lamezia Terme, era diretto a Catanzaro, mentre attraversava un ponte sul fiume Amato, la piena del fiume ha buttato il ponte e il treno è caduto sul lato, e per fortuna è caduto in una zona dove c'erano degli alberi che ne hanno attutito il colpo, altrimenti sarebbe caduto in un precipizio di 20 metri e non so quante persone si sarebbero salvate. Quindi i soldi che volete spendere per questo ponte, investiteli per queste importanti infrastrutture che nelle nostre zone sono necessarie. Sì, appunto, i problemi che viviamo, sembriamo ancora, parlo della Calabria, del sud del mondo, cioè non è possibile nemmeno andare, non lo so, a vedere un concerto oppure a, anche per una stessa, una manifestazione, comunque per dire ciò che pensi, per avere la tua libertà di parola, è difficile anche attraversare la nazione, perché le infrastrutture, comunque le strade in generale, fanno veramente schifo. Fanno schifo in tutti i posti, anche qui all'università. Io vorrei fare una denuncia anche al comune di Rende, comunque per come vengono tenute la manutenzione della strada in generale, cioè ai bordi della strada c'è una foresta, per non parlare delle cosa? Ai bordi delle strade di è morto, sì, cantavano. Abbiamo Samuele che vuole dire una parola a proposito. Scusate se interrompo con questa mia piccola parola e questa trasmissione, però a proposito di queste infrastrutture, di morti, mi viene in mente la scorsa, l'ultima manifestazione in No Ponte c'è stata a Villa San Giovanni, in cui durante un comizio Franco Nisticò è morto, ed è morto per un infarto, per un malore che, se fosse stato, se come dire, il sistema Calabria funzionasse, magari in pochi minuti sarebbe stato in ospedale, magari non sarebbe morto. Invece, facendo un comizio, finito il comizio, si è accasciato ed è stato 40 minuti al sole, 40 minuti lì fermo in attesa di un'ambulanza che non è venuta, e questo denunciando quello che è la mala politica che avviene in Calabria. E facendo questo, lui aspettato lì, morto, cioè è morto lì al momento, cioè non era morto prima, si poteva salvare benissimo. Lui per questa cosa di infrastrutture, per questo collegamento in Calabria, lui è finito, è morto. Ricordiamo che il Villa San Giovanni dista da Reggio Calabria ha uno sputo dove c'è l'ospedale, quindi sembra un pochettino una storia assurda che nessuna ambulanza sia potuta raggiungere in tempo lì dove c'era Cannitello, il parco. C'era soltanto polizia, diciamo che la polizia è necessaria in queste occasioni. C'erano dei pericolosissimi No Ponte, che sono queste gente cattiva che vuole distruggere tutto, come i Notav vengono accusati di voler distruggere tutto, ma in realtà sono la gente che difende la propria terra dai distruttori che vengono a portare. Come per esempio in Ottavo portano amianto nella valle di Susa, e come questi piloni di cemento che vengono buttati nello bellissimo stretto di Messina. Una cosa che ho dimenticato prima, il treno, che volevo parlare un attimo del treno che è caduto vicino dopo la benzina Terme sul ponte, è caduto a 500 metri in linea dalla più grande discarica calabrese, cielo aperto, che è quella discarica di Pianopoli, che è una discarica abusivissima, con il percolato che cade nel fiume Amato e quindi inquina tutta la falda acquifera della zona, e nella zona sono presenti molte piante di ulivo e la gente tra un po' non potrà più coltivarla perché il terreno viene mangiato da queste sostanze nocive. Andiamo un pezzo, ci vuoi dire qualcosina? No, vorrei sapere, vabbè, ricordando che comunque Vanda Ferro era contentissima quando hanno riaperto il ponticello ferroviario all'inaugurazione, sì, è stato riaperto, sì. No Ciccio, è impossibile che sia stato riaperto, perché ieri alla ferrovia c'era il pullman che partiva dalla Mezza Catanzaro, quindi non è stato ricostruito ancora. Io guardai tanto tempo fa il telegiornale e sembrava che fosse così, comunque. Forse l'hanno costruito di cartone, non lo so, hanno messo un ponte di cartone e hanno messo i puffi di sopra. Come al solito succede, chiudo la parentesi sulla nostra bellissima terra, che diciamo che è un po' come quei paradisi che sono difficili da arrivare, però quando arrivi ti trovi benissimo, vero Adrien? Io, a proposito, vorrei sapere la tua, due parole sulla Francia, come sono le infrastrutture in Francia, la strada, e anche collegati al problema TAV che vivete. Va bene, è abbastanza difficile parlare delle infrastrutture in Francia, perché vabbè, diciamo che rispetto all'Italia, vabbè, io sono cresciuto in Francia, ogni estate scendevo in Calabria, l'autostrada l'ho sempre vista il lavoro, c'erano sempre i lavori sull'autostrada, quindi è difficile paragonare la Francia con l'Italia, dato che io sono sempre andato al sud. In Francia le autostrade, diciamo, sono buone, però si potrebbe fare meglio, secondo me, se il governo fosse più, come dire, efficiente forse, eppure più preoccupato per il popolo. Ma diciamo, vabbè, a me non piace paragonare la Francia e l'Italia, perché sono figlio delle due nazioni, quindi lascio la parola a Ciccio, che mi vuole sempre fare paragonare i due paesi con questa specie di nazionalismo italiano, per dire che i francesi sono brutti. Ma non è vero, stronzone, che dici? Stiamo facendo delle differenze, comunque, per dire, un paese che lavora e un paese che non lavora. A proposito, comunque, ringrazio tutti gli amici del sud del mondo che ci stanno ascoltando e mandiamo subito un pezzo rotolando verso sud. Ogni nome è un uomo e ogni uomo è solo quello che è. Scoprirai seguendo le distanze dentro sé. Quante deviazioni, quali direzioni, quali no. Prima di restare in equilibrio per un po'. Sogno un viaggio morbido dentro al mio spirito e vado via, vado via. Mi vida così sia. Sopra un'onda stanca che mi tira su, mentre muovo verso sud. Sopra un'onda che mi tira su, rotolando verso sud. Continente vivo desaparecido solo qua, sotto un cielo avorio, sotto nubi porpora. Mille fuochi accesi, mille sassi sulla via, mentre un eco piano da lontano sale su, qua giù. Un pianto lungo secolo. Sol, sangre, sexo y sur. Sol, sangre, sexo y sur. Ritorniamo, grandiosi, Negrita, che dire. No, una cosa la vorrei dire, Pep. Se, cioè, ci tengo. Praticamente sono in concerto qui a Rende, provincia di Cosenza, a Lorenzoni, lo stadio Lorenzoni. La cosa strana è questa: il biglietto costa 33 euro, la prevendita 33. Cioè 33 penso che sia una rapina in banca con la carta d'identità attaccata sulla maglietta, no? O sul collante che porti in testa, Peppe. Sono i famosi 33 denari che ci vogliono per acquistare il biglietto dei cosi qua, dei Rotolando verso Sud, dei Negrita. E ricordiamo anche che qualche tempo fa c'è stato anche Guccini, che è stato fatto pagare 28 euro. Non lo so. Infatti, da Guccini mi sarei aspettato qualcosa di diverso, dato che... Gira con la Ferrari, Guccini, vabbè, Guccini è emiliano, la Ferrari è emiliana, quindi macchine locali. Noi giriamo col motocarro, loro girano con... A chilometro zero, insomma. Ognuno, noi giriamo col ciuccio, veramente. Qui, perché era locale, loro girano con la Ferrari, ognuno ha quello che ha. Devi dire che forse col ciuccio ci fanno pagare pure il pedaggio sulla tre. Col ciuccio il pedaggio è un grande risultato per la Calabria. Il pedaggio sulla tre non lo metteranno mai, perché non la finiranno mai la tre. Conviene più che l'autostrada sia sempre in ristrutturazione, che si guadagna di più. Ciccio, ho visto, vedo, Ciccio, sempre che vai a vedere queste cose, Ciccio. A proposito di trasporti, volevo ricordare che a Manchester, caro Peppe, in Inghilterra, praticamente nudi in bici per protesta, o in alcuni casi per mostrare alla città un fisico invidiabile, ma appunto perché è la condizione dell'uomo che si contrappone ai motori, proprio come l'articolo che stai leggendo tu, no Peppe? Sì, non c'entrano niente. Ah, giusto, sì, un pochettino c'entrano, hai ragione, Cicci, scusami. Ho dubitato delle tue parole, Cicci. Ricordiamo che sono passati 23 anni dal massacro di Tiananmen in Cina, compiuto nella notte tra il 3 e il 4 giugno dell'89. Che è stato in Cina, ogni tentativo di commemorazione è stato bloccato dal regime. Ricordiamo che la settimana scorsa c'è stato Vittorio, qui un ragazzo cinese che ci ha parlato della situazione in Cina. E invece ad Hong Kong, che è sempre ex colonia britannica, che è ritornata alla Cina, diciamo è ritornata alla Cina, c'è tutto solo per facciata della Cina, in realtà è una situazione tipo San Marino in Italia, cioè hanno una moneta propria, non so. È tutto un po' diverso. Hong Kong si usa come le isole Cayman, queste cose qui, per fare business, come si diceva qua una volta, bissinissi. Là invece c'è stata organizzata una veglia di 160.000 persone. Passiamo il gelato ad Adri. No, solo per dire che Hong Kong era il paese, vabbè, diciamo la città dove stava di più Corto Maltese. Non lo so se voi vi piace le storie di questo marinaio, però a Corto Maltese lui, diciamo, nato a Malta, gli piaceva tanto stare a Hong Kong. E quando si vede i fumetti di Corto Maltese, quando vediamo la situazione oggi, io a volte divento un po' depresso vedendo quello che è diventata questa città, una città capitalista proprio, dove si pensa solo ai soldi. E purtroppo è così la situazione, non è la Hong Kong romantica dove la vediamo nei fumetti. E ora do la parola a Ciccio, che va a continuare con questa storia di Hong Kong. Ok, niente, no, passiamo con il prossimo pezzo, un pezzo dei Israel Vibration, Walla Walla. Try to park it. True, them never know that they're not in it. jacket on the outside. Where them did I? Where them did I? By the roadside, them get a market slide. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. It is a horrible thing out there in the garden. And there's a challenge deep in the jungle too. Where lions and hyenas battle over a me. And it was a showdown in the middle of the open field. Some are known to be the hunter, others fall victim as the prey. Whichever way you check it, all of them have been eaten anyway. Pocket, I say, walla walla walla, dip and gone, ritagliamo sotto le note dei Israel Vibration, Walla Walla. Volevo salutare Romina Gentile e tutto lo staff del bar di Francolino di Petronà, e anche Progepanie della Polonia Renata che ci ascolta, un abbraccio a tutti. E vorrei ricordare anche una cosa, che è possibile comunque, non dimentichiamoci comunque di chi sta male e comunque non ha nessuna mano da parte dello Stato, appunto quello che è successo in Emilia Romagna con il terremoto. Aiutiamolo in tutti i modi possibili. E anche il cartella di Reggio Calabria, centro sociale distrutto nella notte del 15 maggio, e posteremo sulla nostra pagina Facebook il link per poter comunque il link dove c'è il conto corrente postale con il quale sarà possibile comunque agevolare, mandare qualche fondo per il cartello, anche se a breve partirà una campagna nazionale. Comunque aiutiamo le vittime del terremoto, vittime non solo chi purtroppo ha perso la vita, ma anche chi sta vivendo quei momenti difficili, Reggio Calabria per quanto riguarda il cartella. A proposito, Peppe, per quanto riguarda il terremoto, io mi vorrei rilasciare a un problema che c'è stato e che c'è tuttora il problema del sistema Stato in Italia, un sistema che comunque bada come al solito, come c'era nei tempi antichi, anche adesso, a opere mastodontiche, a fare comunque bella figura nei confronti degli altri stati, come la manifestazione del 2 giugno, la festa della Repubblica. Io so per certo che il primo articolo della Costituzione italiana, una Costituzione comunque ambita da tutta l'Europa, dice che la Repubblica italiana è una Repubblica fondata sul lavoro. Quindi ti vorrei porre questo quesito: se è una Repubblica fondata sul lavoro, perché fanno la manifestazione di tipo militare? Un incitamento quindi ulteriore alle armi, o dobbiamo comunque mostrare a tutto il mondo la sostanza bellica che c'è nel nostro paese e farci, non lo so, eguagliare, oppure è una gara? Peppe, di cosa si tratta? No, in Italia, come in tutte le altre parti del mondo, si tende più alla sostanza che... No, qual è la visione, diciamo, della cosa, che alla sostanza. E si vuole fare una bella parata, tanto questa qua passa ai telegiornali, mica passa la gente che sta in mezzo a una strada nell'Emilia Romagna, dopo questo terremoto. Diciamo che ora, anzi, l'Emilia Romagna è nell'occhio del ciclone, quindi un po' se ne parla. Parliamo per esempio di L'Aquila. All'Aquila è successo il terremoto, c'è stata tutta la campagna mediatica sulla ricostruzione, quella Berlusconi, case qua, case per questi, case per tutti, case questo, case là, ma dopo che è passato qualche mese la gente si è ritrovata dentro delle tende e dentro dei container, come quelli che si trovano a Gioia Tauro, più o meno. E purtroppo la gente ha passato degli inverni dentro queste... inverni d'estate, tante stagioni dentro questi container, ancora ne passerà tante. Come quindi la situazione terremoto, che sono delle calamità naturali, che l'Italia, diciamo, che è una delle nazioni europee più a forte rischio. Non so come ci vediamo, per esempio il Giappone, che è stato colpito da un sisma di 7 gradi alla scala Richter, mi sembra, un sisma devastante, che dopo una settimana le autostrade erano già pronte. In Italia qui non si riesce a ricostruire nemmeno dopo 20 anni, come ricordiamo le vittime dell'Umbria, delle Marche, l'Aquila, dell'Irpinia, Messina, Reggio Calabria, sono dico Palmi pure per Adrien, ricordiamo tutta la Calabria è stata distrutta dal sisma del 1908. Rilacciamoci al Giappone, parlando del nucleare. In Giappone si scende in piazza per un referendum sul nucleare. Dopo il Giappone, che è stato colpito da, diciamo, parecchie catastrofe nucleari, come ricordiamo la bomba atomica di Hiroshima e Nagasaki, le bombe atomiche delle... e ricordiamo la più recente, Fukushima, che è la centrale nucleare che ha fatto un sacco di danni nella zona giapponese, nel nord del Giappone, dopo il tremendo tsunami. Poi passo la palla a Ciccio. Sì, a proposito, vabbè, io volevo ricordare anche le vittime della Sicilia, dell'alluvione che c'è stata comunque a Messina, anche nelle nostre zone, e ancora la gente comunque... la popolazione in generale ha dei problemi seri. Adrian, io in proposito al fattore nucleare in Italia, sai che l'anno scorso c'è stato un referendum, finalmente la parola al popolo, per quanto riguarda il problema del nucleare, dell'acqua e dei rifiuti in generale che assillano nel nostro paese. Mi riallaccio subito al problema comunque che sta portando avanti la rete di difesa del territorio di Franco Nistico. Prima il nostro amico Samuele lo ricordava, Franco Nistico, e appunto ricordo che il 6 giugno qui in P2 ci sarà un'iniziativa Musica Ambiente, appunto parlare dell'ambiente della nostra Calabria, tutto ciò che ci circonda, tutto ciò che va difeso con le mani e con i denti comunque. E per quanto riguarda la manifestazione del 6, comunque da ricollegare a quella che ci sarà il giorno 16 a Cariati, una manifestazione comunque... Sì, lascio la parola a Samuele perché ne sa più di me. No, sa più di te, voglio dire, sì, nel senso che Sì, noi qui tutti quanti facciamo parte di chi più e di meno del territorio. Beh, è una cosa che tutti quanti stiamo cercando di creare dal basso. Una, come dire, un insieme di soggetti che cercano di non abbassare la testa di fronte a quelle che sono le angherie del nostro martirato territorio. E il fatto è proprio questo, che di fronte a uno Stato che si pompa rispetto a quelle che sono le proprie potenze militari, abbiamo a fronte di questo una serie di devastazioni territoriali che fanno scalpore, gridano scandalo al cielo. Il punto è che è proprio questo, mentre, voglio dire, noi stiamo ancora pagando attraverso le nostre tasse quello che è, che so, il referendum sul nucleare, quello che è il terremoto dell'Irpinia, quindi che ci fanno capire quanto quelli che sono i disastri per la popolazione sono in realtà momenti di arricchimento per quello che è il momenti di arricchimento per quelli che sono gli speculatori, quelli che sono come dire, coloro i costruttori, quelli che comunque vivono di queste speculazioni. Allora in base a questo, cioè, per queste cose noi dobbiamo cercare di non essere più gli elementi di, come dire, per avallare questo sistema di cose. Noi siamo ancora siamo ancora piccoli, però noi vogliamo crescere, cioè c'è qualcosa in noi che possiamo fare. E possiamo fare il fatto che insieme possiamo costruire una rete di relazioni che dal basso cerchi di sradicare quello che è il sistema di potere della società in cui siamo. Perciò il 16 ci troveremo tutti quanti a Cariati, che sarà un modo per dire no, dire mo basta a quelle che sono le relazioni mafiose che vivono di questo, in cui noi viviamo. D'altra parte che penso che un bel pezzo ma ci sta. Oh no, Peppa. In this wonderful country called Italy. But look out, man, 'cause all that you see is never real. Living in Babylon, living in Italy is no easy. C'è la dietro, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, c'è la porre non ste. Ma c'è la dietro, l'Italia è una repubblica democratica, c'è democrazia non ste. Ma c'è la dietro, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, c'è la porre non ste. Ma c'è la dietro, l'Italia è una repubblica democratica, c'è democrazia non ste. Beautiful Italy, that's a morocaz. Tingalingalinga, vita bella, avast. Nonne, naie, che so la vera faccia. Da che si tolga, che non chiama, so sfascia. Che so l'Italia della chiacchiaruna. Che so l'Italia della la grambamuna. Che so l'Italia della mangia. Che Africa non la so da paia, che so la panza. Che so approfittano dell'ignoranza. Della pacienza, da un povera gente. Che so faccio mazza, tanto e fatico onestamente. Mentre tu padrone, te stia assisa tremenda e tremenda. Che sta situazione addosso tu subenda, perché la sindacata se non nasce una tassenda, va sgobba o fra senza nulla menda, c'è non che te manda una casca le pezza angula seriamente, allora da conviene stato buono in città, canale da fatria dove gli chi è, ma gara da te sfruttano da chi è, da pagina chi è un picca, allora se ne mamme conviene da te si stringe la dita, facendo sto paese, tra che si cave, a te se sei bustata, da ci tempo ne comane, a vai se come dice lo senza protesta e allora la democrazia dove? Ma c'è la dietro, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, c'è lavoro nell'este. Ma c'è la dietro, l'Italia è una repubblica democratica, c'è democrazia nell'este, nell'este. Well, man, this is the real situation in Adinia. But I was born in the south of Italy, when the situation is so more difficult. Believe me, man. Again? Io so che te guagno sciotta di mezzo alla strada. Quando la delinquenta come una cosa normale. Da quando so zaraffa già con la posta alle mani. E quando facendo lo camorrista pescia dalla canna. Faccio l'alternativa da fatica nella stanna. A parte spaccio questa prostituzione contrabbanda. Facendo qualche modo sti guagno una nascita. Zanna portata so da casa vaccinando la parrafa. E poi dice a mamma me sti giovane all'università. Ma cosa faccio c'è da stanno soldo per camma. La famiglia non arriva alla fine di messa. Sua sale capuna la spesa. Sua sale promessa fate sua sale pretesa. La battaglia è lunga ma non si marrisa. Ma non mi di essere piccata per culo e essere risorpresa. Ma so cacato pazza e essere diplomatica e cortescato. Sua sale disoccupata, la precaria la sfrutta. La sottopagata, la cassa indegata. Fatto udisciata, ma sa onda ormana. Cagli in la vintana, ne pensa del vane, del vane. E do crescere la danna. Di alla tessanda che senza fatica radica la mutua alla pagheggia nel dite chiar cioè padega potesci in Cina due tre anni la famiglia avanza sei capito come va tu alla chiacchiera sbassa la coppa bangula le cennisse per la crisi economica ma la colpa non è la loro non sta marabannata già vedi in Italia ma con alle negozie lì ce le dico che è tutto made in China vedi in Japan vedi in Tunisia vedi in Vietnam e allora cioè chiacchiera. Si ritorna in studio e lancio subito la parola ad Adrien per sapere come funziona il problema del nucleare in Francia. Io lo chiamo problema, poi non lo so. Va bene, in Francia purtroppo diciamo che avevamo speranza con il nuovo presidente Hollande, François Hollande, sulla questione del nucleare, però lui non ha voluto fare come un'alleanza con i Verdi, il Partito Verde, Les Verts in Francia si chiama, il Partito degli Ecologisti. E quindi alla fine io penso che sarà la stessa cosa che con Sarkozy. Cioè, la Francia fa finta di non vedere il problema del nucleare, dicendo che come... Non lo so, come se questo problema non ci fosse. Però lo sappiamo tutti. Quando in 87 fosse Chernobyl. Chernobyl che anno? Che l'anno è Chernobyl? Quello lì che l'anno è Chernobyl? 86. Ci fosse Chernobyl che ci hanno detto che come la nuvola nucleare si fosse fermata in Francia. Ci crediamo ancora, però dato che ci sono tanti problemi di salute che sono successi dopo, ora non ci crediamo più nei governi o di destra o di sinistra che ci fanno credere che non c'è un problema col nucleare. Ancora sicuramente ci hanno detto bugia che sia il governo socialista che... Il governo prima di destra. Io devo dire che sono un po'... Vabbè, non è che non credo più nella politica borghese, non ci credo più da un paio di tempo. Però in questo partito socialista che ci hanno fatto credere che volevano l'alleanza con i Verdi, gli ecologisti. Vabbè, forse un tempo ci credevo, però ora devo dire che il nucleare in Francia c'è ancora, ci sarà per sempre, spero di no, però e il nucleare secondo me che sia in Francia, in Italia, in Inghilterra è sempre lo stesso. Ora do la parola a Ciccio. Ok, quindi diciamo che da una parte siete anche rassegnati, direi. Sì, più o meno, sì. Ok, niente, adesso vorrei passare un pezzo con dedica a Renata dalla Pavonia e il pezzo è un pezzo di Rino Gaetano Nel letto di Lucia che Peppe ci introduce. Ah, questo è un pezzo del nostro Rino. Diciamo che introduzione bisogna fare su un pezzo come questo? No, io con Lucia non ci sono stato. Non la conosco nessuno Lucia. Va bene, andiamo il pezzo. Indovini e falsi dei, tanti santi e tristi eroi. Via via, tutti nel letto di Lucia, tutti nel letto di Lucia. Eh eh eh, ciarlatani e ombrellai, colonnelli e usurai. Via via, tutti nel letto di Lucia, tutti nel letto di Lucia. Eh eh eh, che partita a scopone, con tre ministri scalda poltrone. Via via, sempre nel letto di Lucia, tutti nel letto di Lucia. Pensavo fossi solo mia. Chi romanti e futuristi, regimoccolo e sanfedisti. Via via, tutti nel letto di Lucia, tutti nel letto di Lucia. Ma ora via, torno nel letto di Lucia, tutti nel letto di Lucia. E visto che non sei più mia, vieni con me nel letto. Eccoci di nuovo qui. Ricordiamo Rino Gaetano, che l'anniversario della morte era proprio 2 giorni fa, il 2 giugno dell'81, moriva a Roma Rino Gaetano, quando Renzo morì. Morì in un incidente stradale, dove ricordiamo che è stato rifiutato da ben 5 ospedali, come narrava nella sua prima canzone, quando la ballata di Renzo. Sì, ha 31 anni Rino, non è morto a 27 come molti cantanti. E un poeta della nostra terra che all'epoca non era considerato un grande artista per i suoi testi, che sembravano non dire nulla, ma in realtà erano molto profondi e ricchi di contenuto. Passerei la parola a Ciccio ora che ci aveva qualcosa da dirci, mi sembra. Un grande artista, una grande voce, una grande mente. Peppe, quando Renzo morì, io ero al bar, bevevo un caffè. Quando Renzo morì, scrisse proprio questa canzone e si pensa che sia proprio, non lo so, un pronostico della sua morte, perché è identica. Lui fu rifiutato da 3 ospedali, collegandoci al problema di prima delle infrastrutture, e Renzo Rino Gaetano morì, caro Peppe, morì. Dispiacere, dispiacere. Un saluto a Rino che ci ascolta da qualche parte del mondo, penso. Salutiamo Rino, non so, penso di no che non ci ascolti, però va bene, vive sempre nelle sue canzoni, nei nostri cuori. E tutta la famiglia Gaetano. Passo la parola al nostro ospite d'onore, Adrien. Salutiamo pure a Marco Pantani, che è morto in febbraio 2004, che vive ancora nei nostri cuori. Io lo dico per me e pure per Paolo, che il pirata vive sempre per noi, il re delle salite. E infatti, anche se non c'entra niente con Rino Gaetano, Pantani era un artista, cioè un artista della montagna, un artista della salita, per cui vedeva il ciclismo. Pantani era un mito, quindi volevo parlare per lui. Voglio anche salutare Serge Gainsbourg, che è morto nel 91, l'artista più, per me il più grande della Francia. E tutti i santi dell'arte, cioè, no, i santi de Gesù Cristo non c'è, però de cristiani, tutti i santi dell'arte, c'è l'arte che sia, il calcio, la musica, l'arte, la pittura, è tutto, l'arte del popolo. Saluto anche a Malatesta. E salutiamo tutti, però che bella frase che hai detto, i santi del mondo artistico, diciamo, i nostri santi. E a proposito, comunque, non lo so, Peppe, tu, un pezzo che comunque parla un po' degli artisti, un po' anche che vivono in un angolo del mondo, e questi sono gli Aerosmith con Living on the Edge. Suona, Peppe. There's something wrong with the world today, I don't know what it is. Something's wrong with our eyes, we're seeing things in a different way, and God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. Yeah! We're living on the edge. Today. The light bulb's getting dim. There's meltdown in the sky. If you can judge a wise man by the color of his skin, then mister, you're a better man than I. Don't E ritorniamo in studio e comunque in ambito artistico vorrei salutare Masco Cristiano che ci ascolta da Petronà. Lui viva Belcastro, ma ci ascolta da Petronà. Un saluto anche in francese per il nostro amico. Salut Marc, e anche saluto a Stefano, ancora c'è Stefano. A Stefan de Petronà che ci ascolta ogni settimana giocando ai suoi giochi nerd. Nerdissimo, vabbè. No, ci. Ok, siamo qui. Vorrei anche salutare Stefania, 30 milioni. Io comunque saluto tutti e tutti i nostri ascoltatori che adesso comunque sono on air per noi. Comunque, a proposito, Peppe, di cataclismi naturali e politici che non fanno mai nulla e tanto altro ancora, non lo so, leggevo qualcosa di un popolo, cioè un popolo che si pensa sia morto ma ancora che siano vivi, un'ombra. Vogliamo parlare di un popolo sterminato dagli europei, gli americani. Parliamo degli americani, i veri americani, che sono i Maya, gli Aztechi, gli Inca, i Pelerossi. Loro erano gli americani, no, quelli che ci sono ora. Ora sono... Scusa, ma Bush non è un vero americano? Bush, George Bush. Bush, diciamo che lui è il figlio dei Maya direttamente, non lo so. È di chiara origine pelle rosse, Bush, mi sembra, si vede. Vabbè, parliamo di... In senso, ogni giorno sentiamo parlare questa storia del calendario Maya, che i Maya avevano protetto la fine del mondo, basta questa storia, non è vero. I Maya avevano un calendario, come il nostro. Il nostro calendario dura 365 giorni. Al 365esimo giorno, il 31 dicembre, festeggiamo, spariamo fuochi d'artificio che finisce l'anno. Diciamo che muore pure qualcuno verso la zona di Napoli, non lo so, chi si spara con un po' più in maniera più violenta, però non muore nessuno a Capodanno, di solito. Se non per disgrazie varie. I Maya avevano, diciamo, 5, tipo un contachilometri, avevano 5 unità di misura, avevano... Il ciclo Tzolk'in, ve lo leggo qua, il ciclo Ab e il lungo computo. Il lungo computo che dura parecchi miliardi di anni, vi spiego quant'era. Dura. Scusate. Dura 5125 anni. E questo 5525esimo anno arriverà il 21 dicembre 2012, che sarebbe il, secondo il calendario Maya, 13.0000. Dopo questo 13.000 si continua a contare, quindi è soltanto un'unità di misura, come se si parlava del 2000 che succedeva il millennium bug, storie varie. Ma è soltanto numeri, sono numeri. Passo il microfono a Ciccio. Niente, adesso c'è un pezzo della nostra special guest, Adrienne, che ci presenta. Allora, il secondo pezzo si chiama infatti Louise di Thomas Fersen, che ha scritto questa canzone perché lui si è innamorato proprio di una prostituta a Parigi e canta perché questa prostituta è una canzone magnifica, cioè che a me mi è piaciuta tanto. E magari, infatti, mi è piaciuto tanto. Magari possiamo mettere le parole anche sul sito di Clandestino Cito, sulla pagina Facebook. Una volta la posso tradurre questa canzone. E ora la mettiamo perché è bellissima. La puoi fare proprio tu, Adri. Manda. Magari potrei cantare, a parte che la mia voce fa proprio schifo. Quindi. Evitiamo di fare. No, dico, puoi mettere direttamente le parole sulla pagina. Metti tu. Stasera forse sì, se mi sento di farlo lo faccio, se no domani o dopodomani, vediamo. No, andiamo con questo favoloso pezzo, Luis. Téléo Louise, sont des portes d'église. Où j'entre le matin, le chapeau à la main. T'es la voix Louise, penses-tu ce qu'elles me disent? Ou c'est du caraco, le rubis d'un mégot? Après tout, peu importe, où j'allume ma clope, au premier feu du jour, ou aux foudres de l'amour. Si les miennes se grisent, à tes lèvres Louise. Sur tes lèvres, Louise, les miennes sont assises. Je ne décolle plus les fesses de ce banc de messe. Tes lèvres, Louise, crois-tu ce qu'elles me disent? Où cette basilique est un kiosque à musique? Après tout, peu importe où j'allume ma clope. Si ce n'est pas l'amour, ce sont les alentours. Si les miennes se grisent à tes lèvres, Louise. Ta lettre, Louise, est arrivée tantôt. De tes lèvres cerises, elle porte le sceau. Tes lèvres, Louise, me donne congé. Ma rage s'épuise sur mes ongles rongés. Paris te contient et je suis jaloux comme un chien. Je reviens gratter à ta porte. Tes lèvres sont closes, Louise, tu m'envoies sur les roses. Dis-moi quelque chose, rien. Louise, je ne veux plus que tu passes la nuit en bas de l'avenue sous un parapluie. Allora, questa canzone la dedico a tutte le ragazze che ho più o meno amato, cioè tutte le ragazze che ho visto che mi sono piaciute, quindi va bene. Non posso fare un elenco di tutte le ragazze a cui dedico, a tutte le passante, infatti, tutte le passante che... Va bene, poi do la parola a Gigi. Io, per quanto riguarda amore, vorrei comunque ricordare delle vittime, le vittime appunto della strada. Gli incidenti che comunque segnano dei percorsi storici e che comunque nessuno di noi deve dimenticare. Magari Peppe si esce la sera, si fa due bicchieri e guidando poi causare incidenti e vittime. Le vittime che vorrei ricordare stasera sono quelle del 15 gennaio del 2012, Ramona Arcuri e Piero Sacco, vittime di un sabato sera. Ramona aveva soltanto 26 anni e Piero 31. E niente, c'è una vittima, la canzone è di Masco Cristiano e si chiama Questa storia qua, ed è dedicata alle due vittime. E comunque penso di estendere il messaggio anche a tutte le vittime della strada. Questa storia qua sei, non ti vedo più. L'aria c'è, ancora il tuo profumo. Dove sei? È andato tutto in fumo. E me lo chiedo e mi stupisco, anche se poi non lo capisco. Che senso ha questa storia qua? Complimentoni a Masco, e comunque ricordiamo che non dimentichiamo le vittime. Qui in studio c'è un grande applauso per Ramona e Pier. Ok, e si va avanti con la politica questa volta, Peppe. Con la politica, Adriano, devi sapere che in Italia c'è una coalizione che ha sede nel Nord Italia, la Lega Nord. Praticamente, che cosa ha fatto Dordolo? Mi autosospendo. Perché si autosospende? Si autosospende per problemi di tipo razzista. Praticamente, che ha fatto? Muore una ragazza indiana affogata in un fiume, e lui nel fiume Po, e quel porco di Dordolo, perché così va chiamato, con tutto il rispetto per i suini, Peppe, perché comunque hanno anche loro una dignità. Grande rispetto per i maiali che ci offrono il nostro sostegno quotidiano, diciamo che ci offrono salsicce soppressate quotidiane che noi andiamo ghiotti, quindi sia lodato il porco. Sì, anche perché non ricordiamo l'insulina, il maiale ha un'anatomia quasi uguale a quella dell'uomo, quindi è da ringraziare. E comunque questo schifoso, in modo proprio dispregiativo, di Dordolo, diceva... Se lo vuoi offendere chiamo Giuliano Ferrara. No, è peggio. Anche sì, un'offesa per è peggio, perché già Giuliano Ferrara comunque... Lui è proprio... Cioè, no, io lo prenderei a pugni, perché comunque, Adrian, che cosa è successo? Muore questa ragazza indiana nel fiume Po, uccisa dal marito, e lui dice: ha inquinato le acque del nostro fiume. Hai capito? Quindi tu arrivi in un contesto quale Italia, quale comunque sponda del Po, e nel 2012 trovi una ragazza indiana uccisa sul fiume, nel fiume, e dici che comunque inquina le tue acque. E Dordolo comunque ha pubblicato tutto su Facebook, perché comunque i leghisti non si fanno scrupoli su queste cazzate che dicono. E praticamente, che cosa ha detto? Cosa direbbero se andassimo a fare lo stesso nel Gange? Quindi, no? Praticamente è quasi... Questa ragazza è accusata di morte. Cioè è morta per accusata di morte, per aver inquinato il fiume. Bene, il Po forse si potrebbe anche affogare lui, no? Magari... Cosa ne pensi? Cioè, un suggerimento a Dordolo dopo... Perché comunque dopo che ha scritto tutte le cose su Facebook, ha cancellato tutta la home page, ha fatto finta che non sia successo nulla. Allora, io... Precisamente io gli propongo di ammazzarsi con una bomba. Cioè, anch'io posso mettere una bomba nella sua macchina. E secondo me queste persone non devono vivere. Cioè, se Idru ha detto che aspetta, Pierpaolo vuole ubriaco, quindi beh, Pierpaolo vuole aggiungere una cosa. No, va bene. Queste persone mi fanno proprio schifo e questa povera ragazza indiana meritava di vivere e questo porco invece no. E noi questa ragazza, io prima sono sciso fuori, Peppe, c'è una vuna fantastica. A proposito di una, vorrei anche ricordare che il 6 c'è un rarissimo transito di Venere davanti al Sole e il prossimo sarà soltanto nel 2117. A proposito di luna, sì, ricordiamo questa ragazza, non lo so, molte volte è bello ricordare una donna con il volto della luna. La luna che comunque ha sempre attratto l'uomo non soltanto per la sua bellezza ma anche per fonti scientifiche, poiché l'umano è fatto al 90% di acqua, quindi come la marea è interessata alla luna, e, dalla luna anche l'uomo. Come profondo il mare di Lucio Dalli. Come profondo il mare, ragazzi. E quindi passiamo a questo pezzo, Good Night Moon. Si ritorna qui su Clandestino Cid in onda, su Fuori Onda Radio, punto altervista.org. Stasera è una bellissima serata. Leggevo di un prete, Don Paolo Farinella, si fa una domanda. Perché comunque non è che chi è per l'azione cattolica va sempre additato. Oppure che facciamo, Adriano? Riapriamo i campi di concentramento e portiamo tutti lì? No, perché c'è gente che si spacca il culo dalla mattina alla sera anche con associazioni e che comunque dà anche il suo contributo nel sociale. E c'è questo prete, Don Paolo Farinella, che salutiamo, e dice: il Vaticano appoggia sempre i corrotti, i corruttori, i ladri e i manipolatori di coscienze. Praticamente in una folla di cardinali, faccendieri, ministri, affaristi, gentiluomini di sua santità e bancarottieri, massoni, comunque è tutto raggruppato nella Vatican Connection, da oggi possibile su, anche su Repubblica, le varie storie. Cosa? Eh sì, Samuele lancia la sua su campi di concentramento, non sono d'accordo, però almeno il concetto dell'open your mind, open your eyes per quanto riguarda i nostri ascoltatori è quello comunque di non abboccare come delle trote o dei come il trota a questi falsi miti e falsi eroi della Chiesa, perché è tutta una merda. Purtroppo, purtroppo, perché comunque anche, non lo so, chi crede in qualcosa, è, cioè, crede in qualcosa, è giusto che qualcuno creda in qualcosa, cioè c'è la libertà per tutti, però quando questa libertà di religione, la religione stessa, diventa quasi una forma di imperialismo, ricordiamo che il Vaticano è lo stato più ricco al mondo, quindi non lo so, doniamo ai poveri quello che è di nostro. Ricordo, non lo so, Gesù diceva appunto vivi in povertà, no? Quindi Beppe, cerchiamo di aiutare chi sta male. Mandiamo un pezzo, Ciccio. Su cosa mandiamo? Un pezzo dei Doors, vorremmo andare a Touch Me. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna stars fall from the sky for you and I. Eccoci ritornati dopo questo grandissimo pezzo dei mitici Doors, gruppo storico proprio. Che dire, The Doors. Jim Morrison, morto prematuramente all'età di 27 anni, come anche lui nel club dei 27. No, vabbè, no, come Winehouse, diciamo come Jimi Hendrix e Janis Joplin. C'è qui Adri che vuole difendere Amy Winehouse soltanto perché era francese, ma non era francese, sto scherzando. Eh sì, era una genia anche Amy Winehouse, vabbè, ognuno c'ha... Va bene. Volevamo parlare di una notizia. Ciccio mi faceva notare che per il sisma dell'Emilia Romagna Severino pensa ai detenuti per ricostruire le città. E non solo, quindi anche dopo gli immigrati cattivi, anche i cattivi detenuti ci vengono a rubare il lavoro, dato che in Italia il lavoro abbonda. Non solo si fanno arrestare, ma vengono pure a rubare il lavoro. Quindi adesso la gente si farà arrestare, così dopo troverà il posto di lavoro finalmente. Ecco qua, ho trovato il meccanismo. Ci facciamo arrestare, poi troviamo il posto di lavoro, abbiamo lavoro e sgomberiamo anche le carceri, perché usciamo, andiamo a lavorare. E quindi l'economia gira. Sì, a proposito vorrei ricordare anche il comitato di Perugia su Aldo Bianzino. Aldo morto in carcere, ancora cause sconosciute, il processo che va avanti. Però Peppe, volevo farti una domanda. Cosa pensi per esempio per quei carcerati del 41 bis? Chi ha fatto comunque un male grande alla società? Cioè, va a pagare una pena in una cella comunque con un televisore a plasma, il caviale e lo champagne. È giusto, diciamo che meritano queste cose, il caviale e champagne. Io non sono un giustizialista, Ciccio, però gente, questi mafiosi vari, diciamo che fanno del male alla propria terra. Ricordiamo in Calabria che il traffico dei rifiuti, delle scorie radioattive è legato molto a questi malavitosi che hanno nascosto nelle montagne dell'Aspromonte, nella Sila, nelle serre, nei nostri mari, hanno buttato di tutto, le varie porcherie che per quattro spiccioli le aziende del nord venivano a smaltire qui al sud. Ricordiamo il fiume Oliva, la Gioli Rosso e altre situazioni, la Pertusa di Crotone. Anche questi sono mafiosi che meriterebbero davvero di essere chiusi in vita in carcere. Le Marlane, anche le, diciamo, queste aziende che promettevano posti di lavoro, come la Marlane e la Pertuso, la Marlane di Praia, che ha fatto lavorare degli operai in condizioni disumane, che sono morti per aver respirato questi materiali nocivi, come a Crotone, che la Pertusola, che ha prodotto, è interamente coperta di amianto, e molte scuole sono state costruite con cemento mischiato con amianto e porcherie varie. Infatti i poveri bambini che sono andati in queste scuole, molti soffrono di tumori. E poi ci domandiamo: è venuto il tumore, dalle nostre zone si dice non fumava, no, non beveva, faceva una vita sana, mangiava roba paesana. Roba paesana, diciamo che in questo momento sarebbe meglio non mangiarla. Diciamo che, dato il cospicuo tasso di inquinamento che abbiamo nelle nostre zone. E Ciccio, vuole aggiungere qualcosina? Vediamo. No, vabbè, non voglio nemmeno io fare colui che comunque sta qui a giudicare o comunque a dare consiglio sulla pena a scontare, ma a mio avviso chi fa una vita del genere comunque sì, perché no, io sono favorevole ai lavori forzati per determinate persone comunque che escono da una vita di lusso sfrenato e arrivano in un posto dove comunque continuano a comandare, a dettare ordini e a fare la vita dei cosiddetti pascià. Comunque anche da ricordare una cosa, anche un animale va trattato in un modo decente, anche gli stessi carcerati comunque, anche se la loro pena, non lo so, è stata di modo disumano. Io a mio avviso tipo un pedofilo non lo perdonerei mai, sono anche per la castrazione chimica, Pep. per toccare temi del genere. Poi ognuno ha il suo punto di vista, ma determinate persone che vanno anche a violentare una bambina di 2 anni, non mi sembra il caso di mantenerli, sì appunto, mantenerli, non lo so, in villeggiatura, in determinate condizioni, e magari non si pensa ai danni riportati alla vittima, una bambina di 2 anni, come crescerà il suo rapporto con l'altro sesso, sono problemi di tipo psicologico e fisici. Adrien, tu vuoi aggiungere qualcosa? Non penso che si può aggiungere qualcosa a quello che ha detto Ciccio, perché mi pare che hai detto tutto. Il mio punto di vista è quasi lo stesso, quindi non voglio aggiungere niente, perché non è una cosa dove si può scherzare, è una cosa drammatica proprio, quindi secondo me Ciccio ha detto tutto, quindi non voglio dire niente io. Riguardo ai pedofili, questa gente di merda viene, diciamo che in carcere viene riservato un trattamento particolare anche dagli altri detenuti, che quando sanno che c'è un pedofilo, diciamo che lo trattano in maniera idonea. Basta. Questo dovrebbe fare la legge, Peppe. Tu paghi le tasse e paghi anche queste persone. Vabbè, quando la legge non c'è, ce la facciamo con le nostre mani, purtroppo. Eh sì, per questo nasce la mafia, nasce, non lo so, il contrabbando e tutti i problemi del genere. Non hai soldi, non trovi un posto di lavoro, vai a rubare, giustamente. Volevo citare una frase che dice: quando l'ingiustizia diventa legge, ribellarsi diventa un dovere. No, non è una frase di Mussolini. Te quiero más que antes. Radio France International. Esta mañana se inició en Kioto, Japón, la conferencia internacional sobre cambios climáticos. Tienen la difícil tarea de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta. La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre. Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kioto, en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico, no es un modelo de referencia. E ritorniamo qui su Clandestino Cid, fuori onda radio, punto altervista.org, in onda ogni lunedì dalle 21.35 in poi, salvo problemi tecnici. Comunque vorrei ricordare che è possibile contattarci in onda sulla nostra pagina Facebook, Clandestino Cid, oppure su Skype con clandestino.cid o sul nostro sito, sulla nostra email clandestino.cid@gmail.com. Ok, adesso niente, vabbè, ci sono delle notizie che comunque lasciano scalpore, anche la pelle un po' drizza, come quella arrivata adesso. Praticamente il blog cattolico sul terremoto dell'Emilia, l'Emilia terra blasfema, Dio è stanco di noi. Io a questo punto, Peppe, dico respect e ti lancio la palla per il tuo commento sui blog cattolici. Sui blog cattolici, ma che c'è da dire? Se gli vengono in mente di scrivere queste enormi cazzate, quindi se l'Emilia è una terra blasfema e Dio l'ha punita, chissà cosa succederà sotto i nostri piedi. Vabbè, Adri, tu cosa ne pensi di questi blog cattolici che scrivono queste boiate, diciamo? No, puttanate, no, confondiamo chi. No, confondiamo qualcuno. Vabbè, io che ne devo pensare? Cioè, vabbè, io leggo, mi sciallo quando vedo quello che dicono, però sappiamo tutti che sono cazzate, quindi io non ne penso niente. Cioè, io ho sempre saputo il potere della Chiesa in Italia, ma pure in Francia, un po' così. E poi io penso che purtroppo per sempre ci sarà, vabbè, per sempre no, ma ancora c'è quel potere religioso che ci dice cazzate e che ma tu che ti dici? E vabbè, basta, tu hai capito quello che volevo dire, Peppone, quindi vai a spiegare in un modo chiaro quello che volevo dire, perché a quest'ora purtroppo non sono in modo di spiegare tutto quello che penso. E Peppone, che sta bevendo un bicchiere ancora di vino, che è il suo sesto o nonno, non mi ricordo, va a spiegarvi la sua opinione. No, la mia opinione l'ho già detta prima. Comunque, queste falsità sulla mia persona, che io bevo vino, mi sembra non abbia mai toccato un bicchiere di vino io nella mia vita. Eppure Gesù Cristo beve vino. Vabbè, io non sono Gesù Cristo. Vabbè, il vino sì, è un bel nettare. Diciamo che io sono fedele a un solo Dio. Per me l'unico Dio è Bacco. Bacco. Bacco, il Dio del vino. Che volevo dire? Volevo dire una cosa, però mi sono dimenticato, ve la dirò dopo. Ora mandiamo un pezzo, un bellissimo pezzo dei Clementino. Lo voglio dedicare ad Andrea di Contrada Andreotta di Cosenza e Yvonne, mio cugino. Io lo voglio dedicare a Camille e Guenolè, che sono venuti qua a ascoltarci, però che ora stanno parlando insieme, pure a tutti i miei amici che mi conoscono, che ci ascoltano stasera. Questo pezzo è come i mandarini, Clementino? Ciccio. No, Clementino è un artista di Napoli. Comunque ascoltiamo il pezzo. Comunque lo dedico anche agli amici del Curito, Roberto Carpino, mi ascolti, ciao. c'è sciocco. Clementi, Clementi, che na guai, che na guai. Guido, tossico, tossico. Ti chiama tutta la gente che non lo sa, che è naturale che aumenta la creatività. Ma soprattutto sei un bravo aion, un bravo aion. Tossico, ti chiama tutta la gente che non lo sa, che è naturale che aumenta la creatività. Ma soprattutto sei un bravo aion, un bravo aion. Chiuso tra le quattro mura, tra chi si appisola nella penisola se la faccenda non è più sicura. Accendo una lanterna se la strada è troppo scura, come una lucciola nel buio tra la sua natura. La ci spasta e avanza, ansia pure duratura. Ho accantonato l'ansia, c'ho la cura. Guida pranzo naturale, così la storia che racconto spara dal foglio romanzo criminale. Pochi attimi e il THC sale fino a qui, lasciando intorno un aroma di green. Strawberry miltro, your joint clementine. Trovo poi in cuna cin, fanno filtre accendin. Si affacci a PC, fama fanno tiri, fatta facci weed. L'ennesima non fuori come dopo i funghi a Walden Park. Psicolibe il Mexican, la resina ti cresima. Tossico, ti chiama tutta la gente che non lo sa, che è naturale che aumenta la creatività. Ma soprattutto sei un bravo aion, bravo aion. Tossico, ti chiama tutta la gente che non lo sa, che è naturale che aumenta la creatività. Ma soprattutto sei un bravo aion, bravo aion. Fumo nero e vedo lo space nel backstage, crema che passa per Kinder. Herbalize, se sativa la testa sattiva. Iron Lemon Ice, se si scassa il grinder. Dire non mi fa sagliare a Chris. Polmone renne di carbone, bene come? Pausa, ho la voce rauca. Quelle sere che la vorrei tenere da tenore. Grazie spor la charas, mi addormento e sogno. Suono le maracas fino giù a Caracas. Non sistema L, voglio l'XL. Cascate di Shiva, scanca megapixel. Ballo come Billy, ballo sotto la bonga. Da questo lato più cioccolato di Willy Wonka. Mo falla la tromba, odo delle congas, godo dalle bonta, pronta. Tossico, ti chiama tutta la gente che non lo sa, che è naturale che aumenta la creatività. Ma soprattutto sei un bravo aion, bravo aion. Tossico, ti chiama tutta la gente che non lo sa, che è naturale che aumenta la creatività. Ma soprattutto sei un bravo aion, bravo aion. Fra, fra, ramo di speciale ma buono però, come sei tu, come sei tu. Fra, fra, ramo di speciale ma buono però, come sei tu, come sei tu. Fra, fra, ramo di speciale ma buono però, come sei tu. E si ritorna con Clementino from South Italy. From, no, Peppe, no, Peppe. Niente, c'è Adrien che vuole salutare una persona. Allora, io volevo salutare al mio amico Livio, che magari ci ascolta da Roma. E, però, ieri mi ha detto che voleva ascoltarci, quindi speriamo che c'è. Livio, ti saluto, è stato un piacere vederti a Cosenza. E anche per i miei amici, sono stati felici. Anche i miei amici si salutano. E quindi va bene, ora do la parola a cui, a Ciccio. A Ciccio. Ciao Livio, ciao Francia. Una Francia sarda, perché Livio ha parenti, il papà è della Sardegna. Buon formaggio pecorino, Peppe. Belle pecore in Sardegna e non solo, ricordiamo le figliole, belle donne, belle, bel sfruttamento, ci ricorda Samuele. Ma non ricordiamo solo i fatti negativi, ricordiamo bei fenicotteri comunque che ci sono, un animale comunque nel Mediterraneo, un'occasione, bella lingua anche il sardo e bella, bella spiaggia, la Sardegna, bella spiaggia. E ricordiamo che i sardi hanno, sono un popolo grandioso. Ricordiamo l'occupazione della sede regionale ultimamente, ricordiamo il referendum che hanno fatto qualche mese fa per l'abolizione delle nuove province fantocce che avevano istituito in Sardegna, quei paesi di Elisabetta Canalis pure, salutiamo da parte di Ad. Vabbè, lasciamo stare queste squadre che Adri vuole ricordare sempre donne e squadre di calcio, va bene. Ricordiamo, notiamo che Adri è vestito come un tamarro oggi qui. Passiamo alla parola a Cicci, che forse voleva introdurre un pezzo. No, vabbè, Adriano è vestito come, non lo so, solitamente si usa per andare a raccogliere l'olivo oppure l'uva. Un vestiario, non so dove pensava di arrivare stasera. Mi sembra una società abbastanza civile, no Adrian? Vabbè, io non mi importa come sono vestito, l'importante è il mio cuore, cioè un saluto a tutte le donne che ho amato, quindi... che romanticone Adri. Comunque, l'importante non è che tu sia leone o gazzella, l'importante è che corri. Mandiamo un pezzo a London Calling che mi aveva chiesto prima Christian, ora glielo mando, non so se ci sto ancora ascoltando, forse sì. Christian, questo è per te. Gruppo punk degli anni 70 in Inghilterra, il genere punk nato per l'appunto in Inghilterra in quegli anni. I Clash hanno dato un sacco alla storia della musica. Ora vorrei passare di nuovo il microfono a Ciccio. No, praticamente leggevo una notizia. Il modo in cui il cervello processa le informazioni determina l'orientamento politico. L'orientamento politico dipenderebbe dal modo in cui il cervello processa le informazioni ed in particolare di come gestisce le dissonanze e i conflitti cognitivi. Praticamente il radicamento di questi meccanismi che spiega il perché delle persone di diverso orientamento politico fatichino molto ad andare d'accordo. Non è quindi una questione di attaccamento all'ideologia, ma la difficoltà di comprendersi tra persone che usano meccanismi cerebrali diversi. Peppe, tu cosa ne pensi, cioè, al riguardo? Praticamente sono i meccanismi del cervello che comportano comunque una dissonanza tra l'andare politicamente parlando d'accordo, cioè non è una questione di ideologia, ma sono dei veri e propri meccanismi che scattano nel nostro cervello. Vabbè, penso che l'ideologia venga dal cervello, per l'appunto. Se io la penso in un certo modo, è il mio cervello che pensa, non penso che penso con il ginocchio. mi sembra scontato che poi sarà una grande ricerca, però che la nostra modo di pensare venga dal cervello, grazie a Cicci, direi io. Adri, tu come la pensi? Allora, io volevo solo dire una cosa: se avete domande sulla Francia, non lo so, altre domande su mia, allora il mio numero è 3886937930. Allora, ripeto, 3886937930. Se avete domande sulla Francia o altre domande, forse, o se no potete aggiungermi su Facebook Adrien Bakunin, cioè Adrien Bakunin con Bakunin anarchico, ovviamente lo sapete tutti, e quindi potete chiedermi ogni domanda che volete. C'è solo un numero verde, quindi volevo ricordare ad Adri che qui non siamo a un centro appuntamenti o una cosa tipo Maria De Filippi che si deve trovare. Bellissima questa iniziativa dal nostro francese reggitano. Volevo ricordare che a tutti gli ascoltatori che noi andiamo in onda ogni lunedì alle 21:30, diciamo che 22, il tempo che finisco di mangiare arrivo, su fuoriandaradio.altervista.org, in esclusiva, volevo ricordare, in esclusiva mondiale addirittura. Non stiamo chiedendo. Poi andiamo in replica venerdì sera alle 21:30, quello è spaccato al millesimo di secondo perché c'è il mezzo meccanico che la manda in streaming. Ricordiamo che ci sono anche altre trasmissioni su Fuori Onda Radio, che è una web radio indipendente, libera, bella, tutte cose belle, no? E quelle radio che puoi dire quello che vuoi, nessuno ti censura, vaffanculo la censura. Sì, si possono anche dire le parolacce qui, non c'è il parroco o il prete di turno che ti blocca. E ricordiamo a chiunque voglia fare una trasmissione su Fuori Onda Radio che ci può contattare sull'email del sito, che è fuoriandaradio@inventity.org, o può passare dall'aula occupata P2, dove un'assemblea che non mi ricordo quando è, in qualche giorno della settimana, la gente si riunisce e parla di questa radio, di questo progetto indipendente nato qui circa un anno fa, un anno e mezzo. E andiamo con il prossimo pezzo. Adri voleva dire una cosa. Allora, io volevo dire che a settembre 2012 si inizia i corsi autogestiti di lingua francese in P2. Quindi se volete iscrivervi, non lo so, se volete imparare un francese buono, venite in P2. Diciamo, secondo me sarà ogni martedì. E se volete sapere il francese, solo questo era la notizia, quindi va bene. Saranno anche fatti dei corsi di dialetto calabrese con le varie declinazioni, dialetto di Palmi oppure di altri luoghi. Adesso mandiamo un pezzo dei Wolf Mother. Ciccio, dato che c'è Adri che ama molto le donne, mandiamo Woman. Yeah. Eccoci ritornati qui in studio, sempre con clandestino Cid. C'è Adri che è impaziente di salutare un po' di amici. Sembriamo un centro di saluti. Oh, vai Adri. Io volevo salutare la regina, che il primo giorno dove sono arrivato in P2 c'era la regina che mi ha, diciamo, che quando sono arrivato è stata come un'amica, la prima volta che mi ha parlato, e quindi oggi la volevo salutare tipo come se fosse un omaggio proprio a regina, e salutami il re proprio, regina, e ciao. Niente, io leggevo, Peppe, mi ricollego comunque proprio all'etimologia del nostro nome, clandestino Cid, e leggevo: immigrazione in Europa, specchio di un continente che cambia. Scritto da Erika Balduzzi il 4 giugno del 2012 in Società. Frequente dice: Europa, continente in movimento, da terra di emigrati e terra di immigrati. Non solo clandestini, come Clandestina Cid, il nostro programma, e non solo scomodi, nonostante gli spauracchi sbandierati dalle varie correnti nazionaliste più o meno forte che si agitano nel ventre del vecchio continente, anzi sarebbero proprio l'immigrazione nel fattore X che in futuro potrebbe salvare paesi europei dal progressivo invecchiamento. Capito, Peppe? Quindi da oggi invito tutti a ringraziare chi viene nella nostra terra, perché comunque sì, c'è, si apre proprio il concetto anglosassone dell'open your mind, perché anche clandestino è proprio clandestino Cid, questo programma ne è un esempio, cioè forse mi rimangio la parola, perché Adrienne è inguardabile stasera, ha fatto un aperitivo con i suoi amici della Francia che salutiamo, dopo diranno anche due parole in chiusura. Niente, vabbè, clandestino Cid è un esempio del modo in cui e come culture diverse possano comunque migliorare la società. Come diceva un po' di André, gente diversa venuta dall'est diceva che in fondo ero uguale. Ricordiamo che anche noi calabresi, soprattutto noi del sud, meridionali, sì, noi meridionali, soprattutto calabresi, volevo dire il contrario, siamo un popolo di viaggiatori, di migranti, che dai, nel primi anni 30 sono emigrati in America, sono andati proprio in Argentina, Stati Uniti, sono andati anche in Europa come in Francia, in Svizzera, in Germania. Si diceva Yama a Svizzera, da vabbè, mi pare si dice a Svizzera, in Belgio, dove c'erano le miniere di carbone, dovevamo lavorare. E noi venivamo trattati come in Serbia, non lo so se andavamo in Serbia, che cazzo racconti Adrienne, e venivamo trattati anche noi come delle merdacce. Però ci siamo fatti anche noi una vita là, anche Adri è mezzo calabrese, quindi anche lui, i suoi genitori, la sua mamma è dovuta emigrare da qua per andare in un altro posto perché qui mancava il posto di lavoro. Ha conosciuto l'amore. Anche i nostri nonni sono cresciuti in Svizzera, tutte queste cose qua. Hanno perso la patria, non so. Solo io volevo cantare una piccola canzone che dice: nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà, e il pensiero ribelli in cor ci sta. Ok, dopo questo grandissimo pezzo di Adri and Friends, che sono i polentoni che abbiamo qui, anche noi leghisti abbiamo qua in aula, volevamo andare fiere sulle catanzarese. Mandiamo un pezzo per quale? Un pezzo che si chiama Coach Eyes, vecchio capo indiano della tribù degli Apache, perché noi siamo vicini agli indiani d'America. Ascoltava mio bisnonno. Impossibile. We'll be right back. è il delirio totale, il delirio totale, grazie agli Audioslave. Comunque siamo in chiusura, signore e signori, vi ringrazio tutto per il dolce e quieto ascolto, per la colomba anche che abbiamo degustato qui in aula. Niente, vi vorrei ricordare che comunque i podcast sono possibili sul nostro sito Fuori Onda Radio. C'è il delirio, non si può proprio parlare perché comunque c'è differenza di lingue. Adesso abbiamo proprio un ospite che non parla nemmeno italiano, nemmeno francese, soltanto, e nemmeno inglese, soltanto francese. Nemmeno francese. Dialetto francese. Dialetto francese. Saluta i tuoi amici, prego. Arrivederci! Un arrivederci caloroso, caloroso dagli amici della Francia. Passo il microfono a tutti, io vi ringrazio di cuore e vi do appuntamento al prossimo lunedì, sempre qui, Clandestino Cid, su fuoriondaradio.altavista.org, ore 21.35 e 22, quando Peppe finisce comunque la sua cena. Prego Peppe. Volevo salutare tutti i nostri ascoltatori, i nostri appassionati ascoltatori che ormai da quasi più di un mese ci ascoltano. Sì, sono 5 settimane perché una volta siamo saltati per problemi tecnici vari ed eventuali. C'è venerdì c'è la replica per chi si fosse perso questa trasmissione. Un saluto caloroso da parte mia e vi passo il nostro ospite del numero di telefono facile, Adri. Allora, solo un bacio grandissimo a mia nonna che sicuramente non mi ascolta. Allora, nonna Giannina, ti voglio un mondo di bene. E poi vi do a tutti il mio numero, cioè il 38 86 93 79 30. Quindi, allora, mi ha detto, allora, 38 86 93 79 30. E su Facebook Adrien Bacuni, se avete qualsiasi domanda sulla Francia, sui francesi, sulla cultura francese, sulla cultura calabrese, sull'anarchia, sul modo di fare l'anarchia, su Malatesta, su Bacuni, su Pantani, su Zidane, e allora potete aggiungermi, cioè. Quindi ora vi passo Peppone. Volevo ricordare che casomai avete preso il numero di Adri, mi raccomando scrivetelo in tutti i cessi degli autogrill, non vi fermate. Vi passo un saluto da Samuele, mi sembra pure voleva salutare il nostro amico leghista. Sì, infatti io parlo in nome della Lega e volevo dire che noi comunque alla fine facciamo tutte queste moine per avere più posti in Parlamento regionale e Parlamento nazionale, quindi alla fine vi vogliamo bene, cioè nel senso che non è che vi abbiamo in odio, è proprio una cosa che cavalchiamo per avere più posti nazionali, più posti parlamentari, cioè non abbiate paura, cioè questo è il punto. Cioè, e detto questo, io viva la rivoluzione, viva a stare vettura sempre. Ora vi diciamo a tutti buonanotte in francese. Bonne nuit! Non puoi più pretendere di avere tutti quanti attorno a te. Non puoi più trattare i tuoi amanti come fossero mignè. Vuoi solo le cose che non hai. Parli delle cose che non sai. Cerchi di giocare ma non puoi. Pensi solamente ai fatti tuoi. Tu non sei più la stessa. Vuoi che io rimanga nel tuo letto per poi sbattermi su e giù? Non ti lamentare se domani non ti cercheremo più. Ma vorrei soltanto averti qui. Sei accattivante già così. Ti